Arriva a Bologna Mag to Mag, l'evento dei magazine indipendenti per la prima volta nella nostra città. Io sono qui per parlarne con Anna Frabotta, founder di Frabs, organizzatrice dell'evento. Ciao Anna e benvenuta ai nostri microfoni. Ciao, grazie dell'invito e dell'ospitalità. È una prima edizione, come dicevo, del festival che vuole celebrare appunto il formato dei magazine. Innanzitutto, Anna, come è nata l'idea? Beh, l'idea è nata perché in Italia mancava un evento di questo tipo, un evento dedicato soltanto ai magazine, in particolar modo ai magazine indipendenti. Abbiamo tante fiere dell'editoria e della microeditoria nel nostro paese, ma sono tutte focalizzate più sul libro, quindi quello che noi vogliamo fare con questo evento è provare a portare anche nel nostro paese la cultura del magazine indipendente. Allora, ho visto che sarà a Sala Borsa, quindi in una location stupenda. Come si può partecipare? Ci si deve iscrivere? Bisogna prenotare? Ecco, raccontaci un po' come avviene anche la parte più pratica, diciamo. Sì, allora l'evento è assolutamente libero e aperto a tutti. Ovviamente volendoci si può iscrivere sul nostro sito mag2mag.com, ci sono tutte le istruzioni, ci si può iscrivere ai vari talk, ma sono comunque aperti, per cui si accede liberamente alla sala borsa e si accede liberamente a tutti gli eventi in programma il 6 e il 7 maggio. Oltre alla parte di marketing, infatti, ci saranno una serie di conferenze, tutte riguardanti proprio i magazine nel mondo del cinema, nel mondo della moda, nel mondo della grafica, quindi saranno delle conferenze molto specifiche e settoriali. Quindi possiamo dire un po' che questo evento è rivolto, diciamo, agli addetti al settore o in realtà poi alla fine diventa anche un evento aperto, insomma, alla cittadinanza? Ah, sicuramente è un evento molto per addetti al settore e difatti abbiamo voluto creare proprio un evento che fosse anche molto pratico. Ci saranno anche dei workshop e dei corsi di formazione, quelli sì al numero chiuso, quindi bisogna registrarsi. Ma al di là di questo aspetto, in realtà è un evento per tutta la cittadinanza, quindi non è assolutamente un evento molto tecnico, nel senso che una conferenza in cui si parla ad esempio di magazine legati al mondo del cinema in realtà credo sia assolutamente adatta a chiunque. Anna, ti va di raccontarci anche magari qualche highlight sugli eventi, quindi qualche momento clou di questa rassegna, ecco? Beh sì, sicuramente uno dei momenti più interessanti sarà il focus sull'Asia, perché noi appunto di editoria asiatica ne sappiamo poco, soprattutto di editoria legata al periodico, quindi all'editoria periodica. E questo focus sull'Asia lo faranno due editori che arrivano da Singapore e dalla Cina direttamente a Bologna per noi, per cui credo sia una delle conferenze, uno dei talk più imperdibili. Avremo però altri momenti interessanti, perché ci sarà ad esempio un talk sull'Inchiesta Magazine con Giuliana Matarrese, che è una giornalista di moda molto seguita, che ci racconterà perché l'Inchiesta da giornale online ha deciso poi di creare dei cartacei. Ci sarà anche l'art director dell'Espresso, Stefano Cipolla. E la domenica sicuramente da non perdere il talk legato alla moda con alcuni esponenti dei magazine di moda, tra cui appunto giornalisti di Art Tribune, di Lampoon Magazine, che sono testate anche abbastanza conosciute. E poi avremo ad esempio Emanuela Martini, che è la direttrice di Cineforum, sempre la domenica, e che insieme a Davide Cazzaro, che è il direttore della rivista della piattaforma di streaming Mubi, e a Giulia Quintabà, che è un influencer esperta di cinema, parleranno proprio di questo. Inoltre, sempre di domenica, ci sarà anche un laboratorio pratico in cui si andrà a passeggio per la città di Bologna per realizzare una sorta di mappa della città insieme ad un'editrice e urbanista greca che realizza proprio una rivista dedicata alle città, quindi diciamo che sarà un momento in cui verrà coinvolta molto la città di Bologna. Insomma, una rassegna ricchissima ci hai presentato, Anna, poi questi sono appunto alcuni dei punti di una tre giorni, ecco, veramente veramente ricca. Vogliamo lasciare fare magari qualche contatto su come appunto sfogliare anche virtualmente il vostro programma. Sì, esatto, il sabato e la domenica sono in programma più o meno 20 eventi, ci saranno più di 50 espositori dall'Italia e dal mondo. Tutto il programma del dettaglio si può visualizzare sul nostro sito mag2mag.com oppure seguendo il nostro profilo Instagram, che è sempre appunto mag2mag. Perfetto, grazie mille Anna per avercelo raccontato e ci vediamo in sala borsa. Grazie a te, a presto.